A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Sì, ogni pioggia. Abbiamo paura che ritorni quello che è successo, perché abbiamo sempre questo terrore, viviamo con l'ansia. Ho visto passare biciclette, motorette, macchine, andava giù, sembrava una farfalla. Dopo io avevo una paura. Avevo timore che venisse giù proprio tutta la montagna, ero preoccupato per quello che avevo sopra me, anche perché sono terreni ormai che lì abbandonati. Poi infatti è arrivato. È arrivato il 25 ottobre 2011 il fango che sommerse le Cinque Terre e un anno dopo, anche se le strade sono di nuovo pulite, le case ricostruite e le facciate colorate, quel fango è come se fosse rimasto dentro alle persone. Perché ogni volta che il cielo si addensa di nuvole qui a Monterosso, come a Vernazza o a Borghetto, qui la gente trattiene il fiato, spaventata, e guarda la montagna da cui l'autunno scorso partì quel fiume di terra e acqua che tutto travolse, comprese le vite di 18 persone tra lo Spezzino e la Lunigiana, la montagna con i suoi boschi ormai incolti e i famosi muretti a secco quasi del tutto abbandonati. La montagna di una delle regioni a più alto rischio idrogeologico, oggi ancora più fragile di un anno fa, perché ci sono ancora 60 frane aperte e nessun nuovo finanziamento per metterle in sicurezza, denuncia il sindaco di Monterosso, Angelo Betta. Noi abbiamo cercato di fare il massimo, ma io attualmente a Monterosso ho ancora un numero minimo di 60 frane ancora aperte. Se non mi danno dei fondi non riesco a metterla a posto, ma non ce la fa Monterosso, non ce la fa Vernazza, non ce la fa Borghetto, non ce la fanno tutti quanti gli altri. 60 frane ancora aperte, quindi vorrebbero dire 60 punti fragili del comune, 60 punti. No, ma di più, chi ce lo garantisce che altre zone attualmente integre come l'anno scorso adesso non franno? Quindi è come se adesso il rischio fosse aumentato rispetto all'anno scorso. Il rischio è aumentato, adesso siamo fragili perché le frane sono ancora accese, aperte. Fino adesso la stagione è stata abbastanza buona, ma andando verso l'inverno, verso le piogge, ecco, ad ogni temporale forte, come si vive? Come una settimana fa, quando hanno messo questa allerta, io stesso con i miei della Protezione Civile abbiamo passato la notte nel palazzo comunale per capire se c'erano dei problemi, di intervenire subito. Non si può neanche più vivere in questo modo qua, secondo me. Il modo cioè di chi continua a temere di sentire di nuovo alle spalle un finimondo di acqua e terra. A un certo punto dalla collina è venuto giù tutto questo blocco di terra, fango, sassi. I screamed to my sister, "Oh my god, there's cars floating like in a river." È venuto giù il finimondo. La voce di quel fiume che portò morte e distruzione. Gli abitanti di Monterosso l'hanno impressa anche in un cortometraggio per ricordarsi come stavano quel 25 ottobre 2011 e come stanno oggi. Ora che via Roma, che un anno fa era un'unica collata di fango, è lastricata di legno per controllare il canale che scorre al di sotto. Ora che quelle stanze invase dalla furia dell'acqua sono tornate ad essere osterie e caffè per turisti. Hanno voluto ricordare tutta la fatica fatta per andare oltre il fango, per dirla col titolo del cortometraggio, ma sia insieme alla ricostruzione rimane la paura tra le stradine colorate delle Cinque Terre e perché a monte restano troppi boschi abbandonati, troppi canali ostruiti o terreni terrazzati lasciati a se stessi, con le conseguenze che gli ultimi anni hanno mostrato nella loro tragicità. Il 4 ottobre 2010 quattro torrenti mandarono sott'acqua Sestri Levante, nel 2011 appunto i morti di Vernazza, Borghetto e Monterosso e poi a Ulla in Lunigiana, senza dimenticare le vittime dell'alluvione di Genova, 6 travolte dal rio Ferreggiano. E quasi a ridosso dell'anniversario una frana sulla famosissima Via dell'Amore ha ferito una turista. Comuni diversi ma stesso abbandono del territorio, come vede sotto i suoi occhi Sebastiano Catania, che nelle mani e sul viso porta i segni della sua bella terra di Monterosso, che lui lavora ogni giorno. Qualcosa è stato fatto dove ci sono le frane più pericolose, ho visto hanno fatto delle barriere, parti in legno, parti in altri materiali, qualcosa è stato rifatto anche come muretti a secco o parzialmente a secco, però c'è ancora troppo da fare. Noi vediamo che adesso il paese in realtà è un paese che è ripartito, ha già affrontato la stagione turistica e diciamo i segni dell'alluvione li si percepiscono qua e là, ma il paese diciamo si è rialzato, però in realtà sembra sembra capire che il problema a monte sia rimasto. Lei che ci lavora proprio sulla terra, vede effettivamente questo tipo di pericolo? Basta guardarci intorno, si vede l'abbandono. 30 anni fa queste colline subito qua a ridosso del paese erano tutte coltivate a olive, a vigna. Ormai non c'è più niente, cioè è tutto abbandonato, quindi essendo un territorio artificiale ricreato dall'uomo, la natura si riprende il suo spazio. Quindi la terra che è stata portata a monte, che è stata messa lì per creare la coltivazione, col tempo verrà giù. Non vedo altra soluzione che tornare a recuperare tutto quello che sono le cinque terre. Io ancora non riesco a vedere una situazione di sicurezza. Lo stesso sindaco dice che ci sono appunto 60 frane ancora aperte. Si vedono insomma i punti dove ci sono più possibilità di frane, ci sono magari dei canali che se sono chiusi vanno aperti, perché se no l'acqua comunque lo spazio se lo fa. Sono così pochi i terreni ormai coltivati che sì, io nel mio punto lo faccio questo intervento, però se più in basso o sopra di me non lo fanno, non basta. Ci sono dei canali che sono ancora completamente pieni di terra. Perché non c'è nessuno che vuole più farlo? Non c'è più nessuno che lo vuole fare. Quelli che lo facevano soprattutto erano gli anziani, che piano piano vanno a mollare sempre di più. I giovani, se non hanno un riscontro economico, è chiaro che è difficile che ci possano ritornare. Secondo voi di cosa ci si avrebbe bisogno? Cioè di un piano profondo di recupero di tutta quanta la zona agricola? Tanto valorizzare il lavoro fatto effettivamente dal contadino, cercare di creare una catena in questo senso, in modo che la gente sia invogliata a tornare. Questo qua che è tutto ormai un bosco, se ci sono dei muretti a secco, la terra che è lì piano piano verrà giù. Se lei dovesse dire più o meno quanti di questi terreni sono curati e quanti invece abbandonati? Un 20-30% di terreno coltivato, il resto è all'abbandono totale. Solo il 20 o 30% dei terreni coltivati dunque, eppure tanti ostacoli da superare per chi lo fa, da quelli primari come la costruzione dei sentieri tra poderi a quelli più profondi come quel senso di inutilità provata se i terreni limitrofi ai propri restano poi abbandonati. Sono quasi tutti privati ed è per questo che il presidente della Liguria aveva pensato a forme di incentivi per i più giovani per farli tornare a lavorare quella terra, perché le conseguenze del suo abbandono sono troppo alte in una regione ad alto rischio idrogeologico, come dicevamo, ma dove le inchieste aperte per le ultime alluvioni sparse per la Liguria hanno scoperto tanti piccoli e grandi abusi, ponticelli fuori norma, frane mai messe in sicurezza, terre, insomma, abbandonate o dall'altra parte sventrate per grandi progetti come il mega parcheggio alle spalle di Monterosso, messo sotto sequestro dopo l'alluvione perché troppo vicino al canale. Chi conosce questa terra e sa quanto sia fragile insiste allora perché anche su in montagna si aprano dei cantieri, per così dire, per mettere a posto cioè ciò che è stato abbandonato, un po' come si fa ancora quella nelle stradine di Monterosso. Stanno cercando di ripristinare quello che c'era prima. Cioè sono canaline di scolo che di sono? Di scolo che vanno dentro il torrente. Non sai com'è, una volta che è scappato il maiale da chiudiamo la porta, però tutti mettono le difese dei negozi, sai, con le tavole, no? A Pasqua era già tutto aperto, fino ai primi di novembre eravamo proprio senza luce, senza gas, senza acqua. Una volta gente come quel signore lì che lavorava la campagna la teneva a posto. Stanno ancora lavorando, ci è venuto giù tutto, i muri. Vedo che ci sono ancora tanti piccoli, grandi cantieri. Grandi cose, ci sono piccole cose, però le più grandi le hanno fatte, ed è anche col cantiere lì. E anche lei diceva, nelle case sue ha avuto dei danni. Io quella là tutta, avevo 3 metri d'acqua, ho buttato via tutto mio figlio, guarda, c'era da piangere. Non so quanto ci vorrà adesso, ti metti via un soldo per la vecchiaia, invece bisogna tirarli fuori a 85 anni. Sono andata 5 mesi a abitare a Levanto. Quindi è stata via per 5 mesi? Ho preso un appartamento per 5 mesi. Ha avuto qualche aiuto per questa casa che si è dovuta pagare in affitto? Niente, neanche un soldo mi hanno dato qualcosa in giro, ma a me neanche un soldo ancora ricevuto. Ma voi che abitate qua, la montagna, l'acqua arrivava da lì, quindi da molto vicino qua. Che ero là, ho visto passare, dopo i vasi ho visto partire le biciclette, sono stato un giorno, una notte, mio figlio non poteva venire da Rio Maggiore, anche le piante di limoni con le radici sono venute giù, biciclette, macchine, avevamo fatto lì una tipo da cantiere, è partito quello lì in tromba, andava giù, sembrava una farfalla. Ho riscontrato anche elementi di preoccupazione da parte dei sindaci, perché le risorse purtroppo non saranno sufficienti a completare le opere, anche quelle più emergenziali. Necessiterebbe di interventi strutturali con risorse da capogiro e con tempi che sicuramente mal si conciliano con la necessità di garantire l'incolumità. Nera che porta via, che porta via la via. Nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce nera, nera. Ed è per questo, per questa analisi del capo della Protezione Civile Franco Gabrielli, è per paura e precauzione che nei comuni delle Cinque Terre ora sono stati chiusi anche i sentieri bassi, quelli sul mare, dopo la frana ultima sulla Via dell'Amore. I sindaci sono preoccupati. A Vernazza distribuiscono volantini con informazioni e hanno organizzato anche delle assemblee per essere pronti nel caso di nuovi rischi di alluvione. Così anche a Monterosso, nel weekend dell'allerta meteo, il comune è rimasto aperto anche di notte, ma per essere in grado di intervenire davvero su un terreno ancor più fragile di un anno fa, servono soprattutto soldi, almeno quelli promessi, perché fino ad ora, qui, su 40 milioni di danni, solo poco più di 2 sono arrivati nelle casse pubbliche, ed è per questo che il sindaco di Monterosso, Angelo Betta, si arrabbia e dice: sono stati usati 2 pesi e 2 misure tra noi e i terremotati dell'Emilia. Io ho uno staff di geologi, di ingegneri strutturisti che hanno valutato il danno alla parte pubblica per circa 40 milioni di euro. Quindi voi chiedete alla regione 38 milioni, visto che 2 ne avete già avuti? Sì, esatto, a suo tempo col governo ancora Berlusconi hanno stanziato questi 80 milioni di euro che poi sono andati spesi in emergenza. Ne è rimasta una certa quota, sono stati promessi ai comuni, nel caso di Monterosso, 3 milioni e 300 mila euro. E anche la comunità europea ha dato a questa alluvione del 25 ottobre 12 milioni di euro. La regione deve ancora dividere questi soldi. Si sono un po' dimenticati di voi. Noi siamo scoraggiati. Quando vediamo che poi all'Emilia Romagna vengono dati, che sono comunque pochi, 700 milioni, io non penso che ci sia un fondo in Europa dove 700 milioni sono il 2,5%. Quindi vuol dire che si è usato un metro e una misura diversa. Adesso, quindi lei dice che dovevamo soldi... avere lo stesso trattamento che hanno avuto i comuni terremotati dell'Emilia. Assolutamente. Anche qui, nelle Cinque Terre, c'è stato chi ha avuto la casa distrutta, chi ha abitato a sue spese in affitto altrove per mesi. E anche qui, proprio come nelle zone terremotate dell'Emilia, ci sono state aziende che hanno subito fortissimi danni, come l'Hotel Margherita, ad esempio, sventrato dalla furia del fango ed è stato l'ultimo a riaprire. I danni sono stati fortissimi anche perché avevano appena ristrutturato prima dell'alluvione, ma non hanno mai pensato di mollare. E ora qui ci sono di nuovo i turisti, comprese quelle due coppie di australiani che vissero l'alluvione e sono voluti tornare quest'anno, come ci racconta il direttore Edoardo Scoditti. Mentre tutto il paese è aperto prima, intorno a Pasqua, noi siamo riusciti a aprire solo a luglio, perché comunque avevamo degli interventi molto, molto grossi da fare. Io ricordo questa hall che era sottosopra, era proprio un muro di fango. Tutto il piano terra, tutti gli impianti, il magazzino, le cantine, la lavanderia, l'ascensore, tutto distrutto. In parte anche abbiamo dovuto fare degli interventi di ristrutturazione anche del primo piano, era tutto nuovo, ci siamo ritrovati a fare un'altra ristrutturazione. C'è stato qualche aiuto? Come Albergo Margherita, no. Hai fatto una domanda? Sì, mi hanno presentato i danni. L'anno scorso avevo incrociato qui anche dei turisti stranieri, ricordo che molti erano stati messi in salvo sulla terrazza in alto, vero? Sono tornati qualche turista a rivedere Monterosso. Hanno dormito qua la notte dell'alluvione, sono tornati a distanza di un anno, sono commossi sia i clienti che la receptionist. It was very sad because I came here 2 years ago and did the Cinque Terre Trail. Turisti come questa famiglia londinese che si interroga davanti alle foto dell'alluvione appese insieme ai souvenir sulle pareti di un negozietto, o come il gruppo di finlandesi che, muniti di bacchette e biciclette, prima di salire sul trenino a Vernazza, dopo aver attraversato molti sentieri, si fermano davanti alla gigantografia con gli scatti del 25 ottobre 2011 che accoglie chi arrivi via terra in quest'altro borgo ferito delle Cinque Terre. L'anno scorso era raggiungibile morire solo navigando su acque del mare divenute marroni per il fango che trasportavano. Nessuna paura però né incertezza c'è tra i turisti, anche se molti ora chiedono informazioni sulla riapertura dei sentieri bassi chiusi per frane. Da tutte le parti del mondo vengono qui anche per camminare e gli albergatori come Felicina dell'Hotel Pasquale è preoccupata. L'unica cosa che ora francamente ci impensierisce per la stagione prossima sono i sentieri. La frana sulla Via dell'Amore ha bloccato anche le amministrazioni comunali degli altri paesi e ha impaurito i sindaci e hanno bloccato tutto, hanno chiuso tutto, un po' anche il parco, hanno chiuso tutti i sentieri bassi da Monterosso fino a Rio Maggiore e occorrerà poi che ci sia un accordo fra amministrazioni comunali, parco, operatori economici in modo che quei sentieri che di manutenzione non ne hanno un gran bisogno ma di pulizia sì, siano messi in funzione per febbraio, marzo prossimo. Molta gente ci chiede già di ritornare per il 2013 e ci chiede però lo stato dei sentieri. In caso di allerta, a Vernazza i negozianti vengono evacuati e quando qualche giorno fa una pioggia un po' più intensa ha fatto saltare i tombini, la paura è ritornata, diffusa. E lo sguardo, anche qui, verso la montagna abbandonata, perché anche qui, come a Monterosso, sono tante le frane tuttora aperte, come ci racconta Francesco, un volontario della Protezione Civile. Questa sta facendo la fogna, i signori qua. L'anno scorso Vernazza aveva il fango dappertutto. Sì, sì, esatto, ai primi piani no. Adesso il problema è ancora un po' in su, perché oltre alla stazione, i lavori sono da fare ancora, sta mettendo in sicurezza delle frane. Ma a Monterosso ci sono ancora 60 frane aperte, qui? E qui ce ne parecchie ancora, bisogna andare su in alto per vedere i danni, chi sono stati, che devono mettere ancora a posto, c'è frane su in alto della strada che è ancora chiusa, sarebbe stata la strada dei santuari che è chiusa, devono aprirla ma non si sa quando. E invece lo stato, diciamo, della montagna? Devono mettere in sicurezza, infatti se uno va avanti le vede ancora qua due frane in sicurezza che sono sul parcheggio, che sono dietro. Ha iniziato ieri a mettere in sicurezza. Il gas che sta arrivando, prima c'era la GPL, il bombolone è scappato di su in alto e è venuto giù in mare. Ha passato il paese, in mezzo al paese, si è filato di qua e è andato fuori. Prima la serie che poteva essere una cosa ancora peggiore. Qui, come in tutti i paesi della zona, ci sono stati dei morti. A Vernazza ce ne sono stati anche tre, quindi uno dei paesi più colpiti. Tre morti. Anche l'ultima volta è piovuto forte, sono staccati dei tombini, ma da vedere cosa succederà. Cioè, quindi comunque anche adesso quando ci sono state piogge forti? La gente ha paura, infatti qua con gli stati di allerta, con allerta 2 e 1, viene evacuata proprio la via principale. Volontario della Protezione Civile era anche Sandro Usai, portato via dal fango a Monterosso. Sauro, invece, il fiume l'ha sbalzato fuori dal suo negozio a Vernazza, preso ora in gestione dall'amico Christian, non senza un po' di ansia. Era un mio carissimo amico. Questo negozio qua era, come tutti gli altri negozi e tutte le attività, diciamo, del paese, erano praticamente ricoperte di fango, si camminava ai primi piani. Acqua che non si aspetta, altro che benedetta. Il nome di Peppe, il gelataio di Vernazza, altra vittima dell'alluvione, è ricordato invece nell'insegna all'interno di un cuore su via Roma. I morti dell'alluvione la gente delle Cinque Terre li ricorda tutte, come quella data, il 25 ottobre 2011, che qualcuno ora ha scritto con lo spray nero sulle pareti esterne della chiesa di San Giovanni Battista a Monterosso. Dentro, sulla navata, una linea marrone, alta, ricorda fino a dove era arrivato il fango quel giorno. Un giorno che tutti richiamano con paura, ogni volta che il cielo si addensa di nuvole, con lo sguardo volto verso la montagna abbandonata. A ciascuno il suo termina qui, vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate sul sito radio24.it, ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce o sul blog Storiacce, dove ci sono anche le foto scattate nelle Cinque Terre. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, al prossimo weekend!